Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buonasera a tutti e benvenuti sulle nostre frequenze. Noi siamo quelli di Blu Radio Veneto, siamo dalla redazione di Padova. Una buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Calzavara, che insieme a me conduce questa trasmissione. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche questa sera rigorosamente live, Maurizio. Decisamente live. Poi abbiamo un gruppo che ha un nome che piace molto a noi, fa parte proprio dell'organigramma delle radio. Fa parte della radio, proprio. Anche se non era una radio emittente in questo caso, come lo siamo noi, era una radio trasmittente, nel senso che trasmetteva la musica. A quel tempo era la musica degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, e c'era quella radio a valvola, no? Che indicava se la stazione era presa bene o male, a seconda di come si illuminava questa parte di radio. Ma allora siamo già ben inseriti per presentare gli ospiti di questa sera, che rispondono al nome di Trio Radio Marelli. Buonasera, buonasera ragazzi. Buonasera. Allora, fatto buon viaggio. Innanzitutto diciamo che voi arrivate da Bologna, no? Certo. Sì, ecco. Veniamo da Bologna. Venite da Bologna a proporre quella che è una musica che ha fatto tanta strada e più di voi in questo caso. Sì, insomma, diciamo che portiamo il nostro tortellino sonoro, insomma. Benissimo. Ecco, anche benissimo. Perché in questa sera col Trio Radio Marelli parliamo della musica ancora quando il rock non c'era, dovevano ancora inventarlo, quindi la musica proprio dell'origine, quelle che ascoltavano i nostri avi, ma anche i nostri padri, e anche forse noi di nascosto, tra musica rock, un po' di pop. Certo, queste canzoni che ascolteremo in questa serata ci sono dentro di noi, solo si tratta di cantarle, quindi vedremo di cantarle in questa serata assieme al Trio Radio Marelli. Innanzitutto, Trio Radio Marelli, c'erano altre marche di radio da citare, ma voi avete scelto proprio questa, come mai? Sì, era sopra il frigo, perché molte volte le radio venivano posizionate sopra i frigoriferi. Era sopra il frigo di qualche vostro nonno, zio? No, sopra il frigo no, forse in cantina. In cantina. Io ad esempio mi ricordo mio nonno, nella stanza da letto c'è la Radio Marelli. Combinazione ha voluto che sia in casa di mio nonno che dei loro nonni ci fosse una Radio Marelli, e allora Trio Radio Marelli. Se avessero avuto, che ne so, Una Grundig sarebbe stato Trio Grundig. Però suonava un po' più tedesco. Alto attesino, in realtà. Però sì. C'erano, non lo so, magari io onestamente non mi ricordo, magari non so quali potevano essere altre marche italiane del tempo. Poche, venivano tutte dalla Germania. Infatti, mi sa, in quel caso. Sì, mi ricordo Telefunken. Io avevo un Telefunken, mio nonno aveva un Telefunken. Quindi era... Adesso è Teledefunken. Molto tempo. Telefunken. Trio Radio Marelli. Marelli, che era anche il nome di una batteria, se non sbaglio, no? Nel senso di accumulatore. Era molto usato e si continua ad usarlo appunto con il Trio Radio Marelli. Ma non li abbiamo ancora salutati per nome, quindi salutiamo Daniele, Francesco. Ciao. E ciao. Pedro. Ciao. Ecco qua. E allora, il Trio Radio Marelli è nato nel 2004. Però si dice che la storia di Trio Radio Marelli sia da rivedersi molto molto indietro nel tempo. Sì, infatti nasce con le storie che mi raccontava mio nonno riguardo a questa orchestra di suo fratello, che era a Bologna, e avevano questa orchestra di jazz, swing, che aveva avuto una discreta fortuna. Infatti mio nonno si ricorda che nei disastri della guerra suo fratello riusciva a mantenere tutta la famiglia con la sua attività, e c'era questa orchestrina di cui abbiamo tante foto, io a casa ho tantissime foto, che girava per tutta l'Italia con discreto successo, insomma. Poi dopo l'orchestrina si è sciolta a causa della guerra, perché mio zio partì per la guerra e cade in battaglia in Grecia, e quindi diciamo l'attività si interruppe. Però non si interruppero i ricordi, perché io sin da piccolo mi ricordo tutti, da mio nonno alle sue sorelle, parlare con grande orgoglio di questa attività del fratello, che era, aveva cominciato battendo le pentole, prendendo un sacco di schiaffoni dal suo papà e a rede era arrivato invece poi dopo a mantenere tutta la famiglia. Quindi mantenere tutta la famiglia con la musica, cose che adesso è molto più raro trovare, forse. È forse il contrario, sì, che sì, tutta sì, la famiglia mantiene i musicisti. Certo. Diciamo. Ecco, quello è il discorso. Sì, sì, funziona ecco, così. In questo caso sì. E come mai Tumbuktu? Perché quello era esotismo. Adesso Francesco ci darà un saggio. No, un saggio. No. Perché all'epoca si usava i nomi un po' certo, esotici. Poi anche, basta vedere, ad esempio, qualche foto e ci sono lì palme, mare, e, insomma, rappresentazioni esotiche. E come, sì, chiaramente, rappresentazioni esotiche, visto che non si poteva andare fino in fondo, ci si immaginava un po' di tutto, chiaramente. Benissimo, allora, visto che il nostro trio Radio Marelli è qui completo di strumenti musicali, quindi c'è un contrabbasso che è gigantesco, ne vediamo così pochi che, non so, sappiamo che comunque è sempre più alto della persona che lo suona, in questo caso lo suona Pedro, poi ancora abbiamo, abbiamo Francesco con il violino e ancora Daniele con chitarra, tutti e tre cantate, e allora con cosa cominciamo, carissimi professori? Beh, allora partiamo col singolo dell'album uscito nel 2010, I Prov dello Swing, questo è il singolo che dà il titolo all'album. Benissimo, allora lo ascoltiamo all'interno della programmazione live di Blu Radio Veneto. Oggi noi con te faremo una lezione che se ascolterai tu vorrai imparare, perché noi dello swing siamo professori, siamo un trio Radio Marelli. Se tuo cuore un po' triste non vuoi più cantare, se tuo piede un po' stanco e non vuoi più ballare, non avere timore, abbiamo noi la cura, siamo il trio Radio Marelli. Sì, siamo noi che ti faremo cantare, sì, siamo noi che ti faremo ballare, sì, siamo noi che ti faremo godere, perché la musica è un gran piacere. Oggi noi con te faremo una lezione che se ascolterai ascolterai, tu vorrai imparare, perché noi dello swing siamo i professori, siamo il trio Radio Marelli. Taludai da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Sì, siamo noi che ti faremo cantare, sì, siamo noi che ti faremo ballare, sì, siamo noi che ti faremo vedere, perché la musica è un gran piacere. Oggi noi con te faremo una lezione che se ascolterai tu vorrai imparare, perché noi dello swing siamo professori, siamo il trio Radio Marelli. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. No, non avete cambiato frequenza, siamo sempre noi quelli di Blu Radio Veneto, anche se lo stacchetto sembrava di una radio concorrente. In realtà è il gruppo che è ospite in questa serata, loro sono il trio Radio Marelli e sono venuti qua per proporci quelle che sono le loro canzoni anni 30 e anni 40, però questo diciamo incipit riguarda l'attualità, è una cosa vostra questa sì, canzone. È la sigla di presentazione dello spettacolo, insomma, del trio, insomma. Certo, anche perché lo spettacolo e il trio si esibisce nelle maniere più particolari, per non dire più strane, oserei dire. Sì. Varie ed eventuali. Sì, tutto. Anche perché, e questo lo diciamo anche agli ascoltatori, se poi si vogliono prenotare, non so, dopo fuori della diretta si parleranno anche di quelli che sono gli oboli da versare affinché il gruppo si esprima. C'è una possibilità tra le varie di avervi come per tutto il giorno, nel giorno del matrimonio, sì, quindi sì, già da quando la sposa si alza fino aspetta, facciamo lo stacchetto per gli sposi, ah, vai. Sì, un attimo, vai. Sì. Sposi, sposi, oggi sapere il sogno siamo. Sposi, sapere la vita nostra e più gioiosi, radiosi verranno i dì, in una soffuso aurora di tenere dolce pace. Sposi, oggi sapere il sogno siamo. Sposi, tutto risplende a noi. persino i fio. Sposi siamo al fin, mio dolce amor. Sì, che basta dare il là alla fine al gruppo, il trio Radio Marelli. Si accende per, tutto. Per accende sentire tutto. Questo ed altro, non oso dire altre cose. Comunque per ricordare appunto che voi vi esprimete anche all'interno di matrimoni, oltre che magari feste di piazza, certo, quelle certo, solite. Certo. Quindi si diceva accompagnando la sposa sia dal momento in cui gli fanno sveglia, sì, della sveglia, sì, gli curano i capelli, certo. C'è la vestizione, tutte queste cose qua, sì, certo. Mentre la sposa. Lo sposo non viene considerato assolutamente, lui si ascolterà per l'ultima volta i brani hard rock e heavy metal, tanto per mettersi un po' in forma, ecco, per avere una buona carica adrenalinica, e la sposa invece si avvale delle vostre musiche per entrare in chiesa, certo, serenamente. Ecco qua. Allora, Trio Radio Marelli, voi siete nati nel 2004 e già si parla di voi in quanto partecipanti a molti festival di questo genere. Sì, sì. Beh, noi abbiamo partecipato, diciamo, a diversi festival, a partire dai festival di strada che potevano essere più importanti, tipo Mercanzia o i festival organizzati dagli stessi organizzatori del Ferrara Basker, piuttosto che altri festival in Puglia itineranti come la Ghironda, e poi anche festival proprio specifici sullo swing, di cui anche quest'anno abbiamo in calendario un importante festival a Milano per il 23-24 di giugno, e poi una data del Volpiano Swing Festival in Piemonte il 15 di luglio, quindi insomma giriamo festival anche proprio dedicati al nostro genere. Quindi siete impegnatissimi in questo periodo? Sì, diciamo che in questo periodo comincia diciamo per noi l'impegno maggiore, sì, cioè l'estate, cioè i chilometri, l'estate, da fare, esatto. In realtà si miete. Certo, a proposito di musiche, avete detto una cosa molto interessante: le musiche sono elaborate, arrangiate in maniera particolarmente invitante, e questo è positivo, e gli assoli più che a sbalordire tendono piuttosto a carezzare. Non è che a sbalordire, sì, ma carezzate bene la gente. In questo momento ci avete accarezzato bene dal punto di vista musicale, quindi è questo il modo in cui avete da intraprendere, vi collegate idealmente alla musica del nonno, praticamente, non è così? Sì, sì, certo. Infatti il fatto che noi abbiamo partecipato a tanti festival dove siamo a contatto con la gente è proprio perché la nostra musica cerca questo contatto, che era comunque quello che desideravano anche le loro orchestre. Era, certo, sempre, era musica al tempo popolare, noi l'abbiamo ripopolarizzata in qualche modo nell'idea di tenere sempre un contatto con le persone, quindi il fatto che abbiamo fatto tanti festival di strada e tanti anche banchetti lo dice, e nel banchetto noi facciamo esattamente come un concerto, certo. Non è che andiamo a compromessi, perché la nostra musica naturalmente si approccia alla festa, alla gioia di stare insieme, di stare bene, per cui non è che abbiamo un repertorio di seconda categoria per i matrimoni, no, noi siamo sempre noi stessi, sempre con questa voglia di stare insieme alla gente, per la gente, e insomma. Favorite la musica italiana soprattutto, sì. Allontanate dal modello americano, praticamente. Sì, sì, sì. È proprio una convinzione, quello deve essere. Quello sì, quella è stata una scelta. Una scelta già all'inizio, era così, doveva essere così. Esatto. Come prende la gente questo vostro amore per la musica di quel tempo, che la esprimete comunque con i valori del 2012? Sì, certo, infatti la gente lo prende molto bene, perché noi proprio l'attualizziamo nel nostro arrangiamento, nel nostro fare e anche nel nostro proprio mood, no? Di come la portiamo, sì. Noi diciamo sempre che marellizziamo la musica, sì. è questo che piace più, al di là della canzone che andiamo a eseguire, quello che abbiamo visto è proprio piace il modo in cui la facciamo, e la freschezza e l'allegria ovviamente che c'è. Hai detto un ideologismo giusto, come ho fatto, marellizzate il pezzo, lo ricostruite, possiamo dire così. Sì, sì, sì, infatti sì. I nostri pezzi sono, alla fine risultano, cioè, sono quelli, ma li abbiamo cambiati. Cioè, una cover per modo di dire, praticamente. Sì, una cover è solamente l'input, e poi diventa musica vostra al 100%. Esatto. Esatto. Diciamo che uno conosce a memoria, si può dire, tanto per citare alcune canzoni, ad esempio, chi non conosce Pippo non lo sa, piuttosto che Maramao perché sei morto, esatto, qualcuno sì, lo certo. conosceva anche nella versione di Mao Zedong certo. perché sei morto, dopo ve la canto, però ecco, voglio dire, l'importante è, diciamo, cantarla sì insieme, ma anche accorgersi che ci sono... Che ci sono delle sonorità un attimino diverse, pur sempre mantenendo il ritmo che quello ci vuole per impostare la canzone, però queste sonorità che vengono assolutamente, diciamo, modernizzate sì. ancora forse, e forse rese anche un po' jazzate rispetto a quello che c'era prima, chiamiamolo così, o folkizzate. Sì, dipende, un po' e un po', cioè, da un certo punto di vista vengono forse rese più pop, da un altro forse più jazz, dipende, forse vengono sempre portate in una direzione inaspettata rispetto alla loro natura, per cui quelle più jazz diventano più pop e quelle più pop diventano più jazz, non so sì. come dire. Certo, cioè, poi ha detto una cosa molto giusta, altri musicisti jazz possono suonare Parlami d'amore a Mariu come lo può suonare Miles Davis, invece noi voi vi buttate sulla tradizione, quindi Miles Davis o il jazz di un certo tipo no, la tradizione sì. A proposito di tradizione, Maurizio, sì. anche. Lo cantava molte volte anche mio papà, un motivetto che diceva tipo ma le gambe. Certo. Faceva scandalo in quegli anni? No, perché diciamo che le parole venivano curate bene. Dimmi. Ha fatto scandalo, però allora intanto diciamo a tutti gli ascoltatori che ha avuto il beneplacito anche del parroco di Pescara, perché noi quando l'abbiamo suonato abbiamo detto ma non è che non possiamo suonarla siccome era un concerto per la parrocchia, lui ha detto io vi do il beneplacito, quindi abbiamo l'autorizzazione anche ecclesiastica a eseguirlo ovunque. Perché cioè, non vorremmo capire che dopo qui magari a Blu Radio Veneto c'è qualcuno che si offende, quindi abbiamo l'autorizzazione ecclesiastica. Certamente era una canzone molto osè per il tempo, certo. Ha avuto anche dei problemi perché per il regime che c'era a quel tempo, praticamente sì. aveva dei problemini e sviavano il discorso giocando sull'ironia della frase. Esatto. E quindi ecco, se possiamo provare a cantarla. Ecco... Bene, quindi dopo il trio Lescano, signore e signori, all'interno di Blu Radio Veneto ci sono il trio Radio Marelli. Marelli con la lucina rossa che diventa ancora più rossa per questa canzone. Sì, eccoli qua, ma le gambe. Va bene, ok. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri, e azzurri un po' lì su. Ma le gambe, a me piacciono di più. Due mani deliziose ti sapranno accarezzeranno. Ma le gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Swing! Ma le gambe, a me piacciono di più su Radio Blu. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri, che giri un po' lì su. Ma le gambe, a me piacciono di più. silenziose ti accarezzeranno, ma tu cambi un po' nervose, ti prendo in amore. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Fantastico, assolutamente fantastico. Noi siamo preparatissimi nell'ambiente rock, ci mancava questo approccio così particolare con la musica degli anni 30, degli anni 40, degli anni 50, una canzone che cantava il Trio Lescano, poi ancora le sorelle Marinetti, poi chi c'era ancora? Probabilmente anche leggevo tanti altri cantanti, tipo Nico Fidenco, sì, ad esempio. Sì, esatto, le ha cantate Arbore anche con la sua band. Sì, anche con l'orchestra italiana, certo, portano certo avanti questo Male Gambe. Poi naturalmente il trio Radio Marelli avrà anche... Anzi, ne parliamo subito, visto che noi abbiamo parlato di quest'album che... è nato nel 2010 e che porta il nome di I Prof dello Swing, sì, dove all'interno ci sono molte canzoni di quegli anni, anche Crapa Pelada tra le altre cose, sì, cioè, sì, fantastica, che io me la ricordo in una versione, tanto per parlare di Crapa Pelada, che è stato un successo del 1936, sì, di, sì, Gorny Kramer, ancora a quel tempo, è stato anche ripreso e rivalutato da Lino Patruno, certo, assieme a Felice del quartetto Cetra, sì, che sì, sì, hanno, sì, fatto uno show veramente esagerato, bellissimo, dove c'era contrabbasso e chitarra. Sì, la loro versione era anche particolare, perché proprio prendevano in giro il fatto che loro non avessero, sì, i capelli, uno di loro due non aveva capelli. C'era Lino Patruno, Nanni Svampa, sì, mi ricordo, sì, sì, esatto, e poi c'era Felice Cusano, mi, sì, sembra, sì, ecco, che affrontavano appunto questa canzone, ma la portavano veramente bene. Crapa Pelada si intitolava. E poi ancora Lola, Ti dirò, Maramao, perché sei morto, Parlami d'amore, Mariu, ancora un grande brano del Cheek to Cheek in questo caso. E poi ancora quel motivetto che mi piace tanto, Bellezza in bicicletta, insomma un repertorio di quelli che è un the best of, ecco, si può dire, sì, così, sì, the best of the best. E abbiamo notato, Flavio, mentre il microfono era spento, sì, questo pezzo che avevamo eseguito qualche secondo fa è molto swing, ma io ho sentito anche un po' di bluegrass praticamente, sì, c'era un po' di, cioè il violino, che il violino dà molto bluegrass assolutamente, la chitarra come la suoni dopo, no, chiaramente dopo swing è totalmente swing perché c'è il contrabbasso che dà, sì, quel tocco di swing, però la chitarra come la suonavi in un momento e il violino spingeva verso il bluegrass, c'è mica qualcosa di male, è positivo, sì, sì, me, sì, ma infatti scusate, una volta l'avevano, sì, detto, Pedro, al chitarrista, che aveva detto: ma te suoni la chitarra che sembra un banjo, ecco, appunto quello discorso. Bene, è proprio così, è proprio così. Mi fa piacere rimanere nella tradizione della trio Radio Marelli, avere sempre la chitarra che suona come un banjo. Questo è fondamentale. Cioè, se non c'è qualcuno che me lo dice, io mi sento meno matto. No, ma come, c'è qualcosa come che... capite, no, bene, infatti, lo spirito del trio Radio Marelli è questo: divertirsi, stare insieme. E secondo me si lavora perché trasmettiamo anche questo e la gente lo e vede. Non avere paletti, soprattutto, esatto, chiaramente essere liberi, esatto, completamente, sì, di andare, di giostrare praticamente, sì, divertirsi, di divertire, certo, e divertire soprattutto, certo. Allora, noi ricordiamo i nostri ascoltatori che siamo in compagnia con il trio Radio Marelli fino alle 22:30. Ricordiamo anche una maniera per mettersi in contatto con il trio Radio Marelli per avere anche maggiori informazioni riguardo la loro attività. E quindi c'è un sito internet a disposizione per tutti voi, che è trioradiomarelli.it. All'interno di questo si possono prendere appunto le varie informazioni, comprese quella di leggere la biografia, che adesso cercheremo di ripercorrere anche noi. Ci mancherà sempre qualcosa, quindi un invito appunto ad andare anche a curiosare all'interno del sito. E poi anche ricordiamo che questa trasmissione è registrata, per cui voi carissimi ascoltatori avrete la possibilità di ritornare all'interno dei nostri archivi sonori tra qualche giorno e magari riascoltare la puntata dedicata al trio Radio Marelli. Poi ricordiamo che ci sono anche, verranno scattate alcune foto, e così potrete vedere anche questi tre pazzi come si comportano in questa serata. Tra altre cose, vi siete dimenticati, Trio Radio Marelli, una cosa per la quale invece siete conosciuti fuori alle feste, visto che c'è anche come complicità la cuffia che in questo caso indossate, però abitualmente voi usate schiacciare i vostri capelli con dei cappelli. Sì, sì, infatti. Esatto. Ecco, con due, con tre cappelli assolutamente diversi tra loro, quindi sì. C'è il più elegante, il più, come dire, gangster, e il più, diciamo, forse da ufficio, si può dire così, sì, quindi sì, da manager, ecco, sì, in questo sì. caso. Allora, hanno un nome questi tre cappelli? Un nome... ma non lo so, il mio si chiama semplicemente cilindro, perché gliel'hanno dato. Il nostro sarebbe un borsalino. Sì, sì, un borsalino. Il suo... no, non hanno dato nomi. Non hanno dato nomi, no, comunque no. Sempre quei classici cappelli che andavano di moda, sì, qualche tempo due fa. Due borsalino e un cilindro. Sì. Ecco, mm-hmm. Benissimo. Perché avete favorito, cioè avete preso molto del repertorio di Gorni Kramer? Qual era il motivo? Beh, perché vi piace innanzitutto? No, beh, certamente perché è stato un autore molto popolare ed è un autore anche che è stato un grande anche fisarmonicista, improvvisatore, sì. Per cui sui suoi pezzi le improvvisazioni sono sempre molto piacevoli. È un direttore artistico di orchestra atipico, chiaramente atipico. Però un grande artista, certo. Quindi ovviamente nell'omaggiare le canzoni migliori ai migliori artisti non si può non... diciamo non approcciarsi a Gorni Kramer, impossibile, insomma, è stato un autore troppo importante per non dargli il giusto peso, insomma, ecco. E poi avvicinandosi a Gorni Kramer, avete la possibilità di approcciare alla vostra musica, perché Gorni Kramer, esatto, è solo un motivo, solo un input che poi favorite, sì, allargate, sì, come sì, abbiamo detto, portiamo avanti, certo. Portate avanti un discorso, sì, sì, personale, sì, assolutamente personale. Sì, sì, beh, poi Gorni Kramer, come noi, aveva un senso della leggerezza, dell'ironia, che ovviamente ci trova in sintonia. Quindi, ovviamente, per poterci esprimere dobbiamo scegliere gli autori. Ma diciamo che tutti gli autori che scegliamo, anche nei, sì, nostri spettacoli, compresi i più recenti, sono tutti uniti da questa sintonia con cui abbiamo, cioè, anche, cioè, che ci storiamo. Per le loro canzoni, per il loro linguaggio. Sì, per chi si ricorda comunque Gorni Kramer, per chi vedeva a quei tempi la televisione ancora rigorosamente in bianco e nero, sapeva che era molto raggiante, esprimeva, sì, sì, sì, molta molta simpatia ed era sempre col sorriso anche nelle situazioni un po' più forti e impegnative, diciamo. L'altra cosa mi sembra di ricordarlo anche con Mina, forse nella parte finale, no? Sì, sì, infatti c'era, lui è stato il ponte, proprio il passaggio, sì, tra, insomma, tra una Rai appena nata, sì, e poi, sì, la, sì, Rai, sì, dei, sì, grandi, sì, spettacoli. E, quindi, e lui c'era dentro, probabilmente già Mille Luci anche. Sì, sì, poi è arrivato Canfora, è arrivato Canfora dopo, il famoso Canfora che è stato citato un sacco. Canfora lo chiamava sempre un grande comico, è arrivato Canfora che ha sostituito Gorni Kramer. Sì, però sì, sì. Il passaggio continua, non si interrompe. No, assolutamente. Assolutamente. Altro, no, esiste anche un video in rete che ho trovato dove si vede Gorni Kramer, insomma, anche negli anni più recenti, che, insomma, è stato richiamato in TV, insomma, e a dirigere anche pezzi più moderni, insomma, con cantanti, insomma, più moderni. Quindi alla fine lui, cioè, comunque non ha mai interrotto, anche se al tempo fu un po' fu messo un po', sì, poi isolato, messo da, sì, parte, isolato, come quello che non voleva quella famosa categoria di cantanti detti gli urlatori, no? Certo. Insomma, invece in realtà ha sempre fatto, insomma, è andato avanti con la storia. Bene, allora ci prendiamo un po' di fiato, quindi diamo, ascoltiamo un pezzo da quella che è l'inizio della vostra ultima produzione, che si intitola Bagno Marelli, e ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Califano e Vianello, quindi andiamo un po' in qua nel tempo, mentre Male Gambe faceva parte di un repertorio, diciamo, non usiamo il termine di antico, però molto vintage, no? Ecco, in questo caso andiamo a trovare un pezzo forse dimenticato, ma soprattutto dimenticato per il nome, però non appena si ascolta si capisce subito di quale sonorità stiamo parlando. Stiamo parlando naturalmente del pezzo che si intitola Carta vetrata, rivisto e corretto dal trio Radio Marelli. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Con tutta quanta la pelle insabbiata, se tu continui i tuoi bagni di sabbia, come puoi prendere il sole con me? Sei come un foglio di carta vetrata, per la mia pelle così delicata. Se vuoi sdraiarti sul mio asciugamano, fatti una doccia e poi vieni qui. Quante volte devo dire, la sabbia no, ma tu non lo vuoi capire, la sabbia no. E non vedi che la gente ci guarda e ride, ci prende in giro, poi guarda me. Sei come un foglio di carta vetrata, una fettina di carne impalata, per questa volta tu sei perdonata, ma da domani non farlo più. Quanta la pelle sabbiata, se tu continui i tuoi bagni di sabbia, come puoi prendere il sole con me? Sei come un foglio di carta vetrata, per la mia pelle così delicata. Se vuoi sdraiarti sul mio asciugamano, fatti una doccia e poi vieni qui. Vedi che la gente ci guarda e ride, ci prende in giro, poi guarda me. Foglio di carta vetrata, con tutta quanta la pelle insabbiata. Se tu continui i tuoi bagni di sabbia, come puoi prendere il sole con me? Sei come un foglio di carta vetrata, per la mia pelle così delicata. Se vuoi sdraiarti sul mio asciugamano, fatti una doccia e poi vieni qui. Quante volte devo dire, la sabbia no, ma tu non lo vuoi capire, la sabbia no. E non vedi che la gente ci guarda e ride, ci prende in giro, poi guarda me. Sei come un foglio di carta vetrata, una fettina di carne impanata. Per questa volta tu sei perdonata, ma da domani non parlo più. Ma da domani non farlo più. Ma da domani non farlo più. Radio Veneto, Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Sempre con Blu Radio Veneto all'interno della programmazione serale Blu Radio Sera. Ancora buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, Maurizio Calzavare insieme a me, e insieme a noi c'è il trio Radio Marelli. Ancora un benvenuto a Daniele, Francesco e a Pedro, che arrivano direttamente da Bologna per presentarci queste sonorità un po' in là negli anni, ma rivedute e corrette, e come se sono state corrette bene. Allora, carta vetrata, noi siamo abituati a sentire Tintarelle di Luna, queste cose qua, cantate appunto da Vianello, non solo da Vianello. Carta vetrata, un brano sì conosciuto ma poco utilizzato, che comunque voi l'avete evidenziato bene per proporlo, nel senso che è un qualcosa di non ascoltato fino in fondo e quindi merita essere riproposto. Anche musicalmente insomma interessante, anche molto interessante. C'è il cambio che è assolutamente inusuale, del passaggio veramente armonico che questa è una cosa che penso che adesso, cioè, non si sente più un passaggio così, sembra una roba arditissima, ed è veramente un passaggio molto interessante. e che non si trova in altri pezzi di Vianello, e quindi penso meritasse di essere riproposto come pezzo in generale, perché è veramente molto interessante. Molto. Quindi non era troppo semplice come tutti gli altri pezzi di Vianello. C'è il Califo che fa il testo, è già una cosa sì, rarissima che lui faccia un testo per Vianello, di solito sì, faceva i testi per lui e basta. Infatti è un pezzo particolare, l'abbiamo scelto per questo e siamo contenti di averlo fatto. Speriamo sia gradito anche agli ascoltatori, ma sembra che sia piaciuto molto anche durante i nostri concerti l'estate scorsa, quindi è stata una buona idea. Quindi è un pezzo tipicamente estivo, anche se però non tradizionale rispetto ai famosi pezzi che ha citato Flavio, no, di Vianello. Infatti no. È un po' lontano anche come costruzione, come tu hai detto. Sì, sì, sì. Allora, leggo qui da Bagno Marelli, oppure dall'anticipazione di Bagno Marelli, che ci sono tre improbabili bagnini musicisti di un fantasioso bagno d'altri tempi che vi faranno divertire al ritmo dei grandi successi estivi dei favolosi anni 60 e anche i giorni nostri. Sì. D'altra cosa, ricordiamo che su YouTube c'è anche una vostra particolare presentazione, vestiti proprio da bagnini bianchi e azzurri, con gli ombrelloni altrettanto bianchi e azzurri, in mezzo a una spiaggia. Quando l'avete registrato, che non è mai stato bel tempo finora? ma noi. No, quella è una cosa fatta l'anno scorso. Un giorno di sole l'abbiamo purtroppo. Ah, sì, sì, sì, sì. E quindi vi siete messi lì in mezzo tra spettatori increduli di vedervi in quella, sì, sì, in quella situazione e via così. Comunque anche il vostro spettacolo marino si chiamerà Bagno Marelli. Sì. E voi come sarete? Con cilindro, con borsalino oppure con... No, abbiamo una versione, diciamo... Il cappello alla veneziana. Sì, infatti cappello alla veneziana, cappelli sì, di paglia e braghe corte. Oppure, se a richiesta, se ce lo chiede, abbiamo anche il vestito proprio da bagnini a strisce bianche e blu, con io con le pinne, dipende. Ma a richiesta possiamo anche far proprio il costume da mare, ecco. Quindi abbiamo un sacco di opzioni, insomma. Sì, sì, opzioni, sempre, beh, sempre. Certo. Di Marelli è sempre tante opzioni. Tante opzioni. Almeno tre opzioni. Almeno tre. Vabbè, allora, voi siete andati anche in Rai, non dite sì, di no, non vergognatevi di dirlo. Siete stati in Rai e vi hanno visto anche in televisione. Qual è stato l'impatto con questi grandi studi televisivi? Quello che abbiamo trovato lì è stata una bella, cioè una grande professionalità per quanto riguarda chi lavora lì dentro. Poi ci sono c'è lo studio televisivo, c'è tutta la tecnologia, tutte le persone molto professionali, e poi bisogna vedere cosa si va a fare. Questo poi è un altro discorso. Certo, voi ancora eravate forse inesperti o già vi conoscevano come trio Radio Marelli nonostante la giovane età, e quindi hanno detto: questi fanno per noi musica alternativa. Com'è stata la scelta, diciamo, di trio Radio Marelli? Beh, diciamo che alla fine è stato, per le puntate che abbiamo fatto su Rai 1 era una scelta dovuta proprio alla nostra tipologia di repertorio, di musica, che stava bene lì, perché l'ideatore aveva pensato alla nostra musica proprio, che era adatta per quella trasmissione. Poi per quanto riguarda la nostra apparizione X Factor, quello è un altro par di maniche. Avete tentato di apparire, di fare qualcosa, di andare avanti nella classifica. Sì, infatti poi è sfumato, però avete tentato. Certo, quindi certo. X Factor è più dura, perché dovrebbe essere come uno show continuo in quel caso, quindi sempre con le telecamere, sempre sotto stress in questo caso, quindi si perde anche un po' di quello che è l'entusiasmo che invece state facendo vedere, che sentire che esiste, diciamo, nelle vostre performance. Beh, sì, quindi, non lo so. Diciamo che X Factor lavora ai fianchi e forse lavora troppo a volte, no? Non lo so, cioè alla fine non è mai bello parlare di una cosa nella quale uno non ha avuto accesso, perché sembra sempre la vecchia storia della volpe e l'uva. Noi possiamo dire che abbiamo trovato grande professionalità e che poi alla fine non siamo entrati, i motivi li sapranno loro, ma ci è sembrato comunque una competizione pulita, e quindi ci sarà state delle motivazioni che non lo so. è andato bene così, ecco. Non so se questo sia il metodo, cioè certamente anche stare davanti alle telecamere, anzi, è una cosa di professionalità, perché hai una sola chance, devi cercare di lavorare bene alla prima, e lavorare con entusiasmo in quelle condizioni è un obiettivo professionale, ecco. A noi ci sarebbe piaciuto proprio per quello, riuscire a lavorare così per ottenere lo stesso entusiasmo anche essendo sotto pressione. Non abbiamo avuto quell'occasione, abbiamo avuto poi altre occasioni, perché poi siamo stati Rai altre volte, ma secondo me non sono due cose incompatibili, anzi è un obiettivo professionale essere entusiasti e sciolti anche di fronte a una telecamera, ecco. Certo, eravate entusiasti anche nel muro di Berlino, vedi che siete andati al ricordo dei 20 anni del muro. Lì molto. Sì, sì. È stato molto bello. Sempre... assieme a uno scrittore, però. Sì, insieme a un grande artista, un grande pittore, Giampaolo Talani, che è un nostro amico, che ci ha onorato della sua scelta, che, diciamo, portandoci in molte delle sue più grandi e importanti installazioni, quali Piazza della Signoria, Berlino, e ci ha onorato anche portandoci a Berlino per i 20 anni, sì, della caduta del muro. Del muro, dove lui ha portato questa installazione degli ombrelli che scavalcavano il muro, e noi abbiamo portato la nostra musica, che è stata gradita molto dai tedeschi, che amano molto la cultura italiana, e noi, portando un'italianità proprio così marcata, abbiamo suscitato le simpatie, tanto che quest'anno siamo tornati là per i 20 anni di del ristorante italiano più importante di Berlino, Bocca di Bacco. E quindi siamo felicissimi, insomma, ai tedeschi piace l'Italia. Oh, non so se avete sentito i telegiornali, quanti milioni di tedeschi sono in viaggio verso l'Italia. Ai tedeschi piace l'Italia, e l'abbiamo visto anche in musica. Vedete, l'altro giorno con Pedro eravamo in giro in macchina e ci siamo fermati in una piazzola di sosta, è stata invasa dai tedeschi. Sì. C'è veramente tantissimi tedeschi. I tedeschi continuano ad amare l'Italia, non è vero che c'è stato un cambiamento di tendenza, e l'abbiamo visto anche in musica. Bene, bene, per chi non conosce Talani, ricordiamo anche un suo sito internet per vedere anche le sue opere, quindi talani.it, e si può accedere facilmente a quelle che sono le sue opere d'arte di un certo interesse, diciamo così. Assoluto. All'intenditor poche parole. Credo, ecco, che non abbiano bisogno di commenti, perché è un'arte che è raffinata, intuitiva al tempo stesso, e c'era un legame anche con noi, insomma, l'idea di comunicare senza però rinunciare alla qualità. Ecco, credo che anche Giampaolo, ovviamente, ha tutto un altro livello, perché lui è un grande artista, adesso esporrà anche la Biennale, insomma, però l'idea è quella di essere comunicativi e fare le cose con cura, insomma. Siete comunicativi anche fin dalla copertina del disco ufficiale. Anche quello interessante, è futurista la copertina. Sì, sì, molto futurista. Infatti è stata curata da una cara amica germana, Luisi, che ha avuto questa meravigliosa idea. Sì, sì, e ha veramente colpito nel segno. Ha colpito nel segno proprio con quest'idea così aggressiva, energica, futurista della copertina. Bene, allora abbiamo parlato prima di Bagno Marelli, perché non ascoltarlo dai vostri strumenti direttamente in questa serata? E allora Bagno Marelli sia! Quest'anno la stade è al Bagno Marelli, lascia i problemi per la festa con noi. Quest'anno è già passato tutti i suoi pensieri, come ieri che domani passerà. L'allegria è la cosa più preziosa, l'allegria è la cosa prodigiosa. Ridere e scherzare sono una regina. L'allegria è la cosa prodigiosa, l'allegria è la cosa contagiosa. Quando siamo insieme sale l'arte per me, attaccami questa influenza per favore. Quest'anno la stade è al Bagno Marelli, lascia i tuoi problemi per la festa con noi. Anche la tristezza è già andata in vacanza, non ha più lavoro perché ci siamo noi. Da da da Quest'anno la testata è al bagno Marelli, lascia i tuoi problemi per la festa con noi. Quest'anno è già passato con tutti i suoi pensieri, come era che il domani passerà. L'allegria è la cosa più preziosa, l'allegria è la cosa contagiosa. Ridere e scherzare sono una medicina, rischiano malinconia e rabbia. L'allegria è la cosa più preziosa, l'allegria è una cosa contagiosa. Quando siamo insieme sale la temperatura, attaccami questa influenza per favore. Quest'anno la testata è al bagno Marelli, lascia i tuoi problemi per fare festa con noi. Anche la tua stessa sta andando in vacanza, non ha più lavoro perché ci siamo noi. Non ha più lavoro, è disoccupata, è interinale, è già licenziata. Coco, pro, coco, più fa bandere dal culo. Non ha più lavoro perché ci siamo noi. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. No, va bene, puoi continuare. Sì, sì, si può continuare. Siamo assolutamente in diretta, abbiamo appena ascoltato il pezzo rigorosamente dal vivo del trio Radio Marelli, si intitola Bagno Marelli appunto il pezzo che ci siamo ascoltati, quindi anche questo un pezzo assolutamente vostro. Sì, quindi, sì. Sì, abbiamo parlato di questa sonorità negli anni, Malegambe, eccetera, eccetera, però c'è qualcosa di rivalutato e assolutamente targato 2012, quindi circa 80 anni dopo. Sì, beh, diciamo, secondo me, lì quando abbiamo scritto il brano doveva anche questo parlare di questa allegria, di questa gioia, e credo che il mood, l'emozione sia sempre quella. Insomma, l'altro Radio Marelli è questo, e anche le canzoni, insomma, devono riflettere, che sia i prof dello Swing o Bagno Marelli, l'idea è sempre quella, e spero sia arrivata, insomma, l'ironia, il divertimento. Certo, il gioco di ironia dal punto di vista del testo, ma è difficile però aggiungere l'ironia alla musica, non è un semplice, sembra semplice ma non è così, la costruzione, l'idea della costruzione così come è nata, come si è sviluppata in questo pezzo, soprattutto che è un pezzo assolutamente vostro, inedito. Ma in realtà è nata per la nostra sigla dello spettacolo Natale in casa Marelli, perché diciamolo, anche per il vostro Natale preparatevi, perché abbiamo anche lo spettacolo a proposito delle Natale, opzioni, cioè se volete che vi caschino dal camino una bella sinfonia, chiamate il Trio di Marelli, noi scendiamo anche dal camino e vi facciamo lo spettacolo per Natale vestiti da Babbo Natale, cioè, no, sì, ovviamente Babbo Natale, Renna e Befanone. Cioè, ricordiamo che noi abbiamo anche il costume per lo spettacolo Natale in casa Marelli. Vi arriverà in casa la Renna, la Befana e Babbo Natale per tanto swing natalizio, e veramente non potete assolutamente perdervelo. E allora era nata come la sigla dello spettacolo Natale in casa Marelli. Infatti vi facciamo un esempio di riciclo musicale, facciamo sentire com'era. Aspetta. Quest'anno il tuo Natale è in casa Marelli. Ok, va bene, quindi può essere quest'anno il tuo Natale è in casa Marelli a Natale, poi d'estate quest'anno la d'estate è al bagno Marelli. Double fast, insomma. Double fast, esatto. Certo, perché esatto. Siccome siamo di Bologna, il maiale ci vede, il maiale non si butta via nulla, neanche della musica. Tra l'altro, voi lo sapete, chi ama la musica classica, anche Rossini ha usato per la tragedia, la commedia, la stessa sinfonia, quindi diciamo che abbiamo anche degli nobili, molto più nobili predecessori. Esattamente. Quindi il trio Radio Marelli si fa una giusta pubblicità per la duttilità in queste varie svariate forme di comunicazione musicale, sempre presentando il diciamo sia il percorso legato agli anni passati, sia il percorso proprio legato al trio Radio Marelli. In questo Bagno Marelli, oltre a Bagno Marelli, ci sono anche altre canzoni vostre, o avete continuato a pescare da repertori in là nel tempo? No, diciamo Bagno Marelli è stata, cioè la mettiamo perché dico, ma allora non scrivete un pezzo vostro? E io dico sempre, ma ascoltate che alla fine sono tutti pezzi nostri, non abbiamo bisogno di scrivere un pezzo, però se volete vedere che sappiamo scrivere anche un pezzo nostro, è moto scrivo, e così senti che una canzoncina orecchiabile, insomma, la possiamo anche tirare fuori. Comunque sì, è l'unico singolo. Poi può darsi che, visto che c'è questa richiesta richiesta, così per nella nostra polidiversità faremo anche un disco tutto di singoli, così per sentirci dire ma non è che ci abbiamo pure quello, perché Trio Radio Marelli deve essere gran bazar. Effettivamente quell'opzione lì ancora la devo tirare fuori, è tutto originale. Ma Marelli gran bazar, quello che vuoi noi ce l'abbiamo, non ti preoccupare. Ad esempio vi chiedo, visto che cominciate voi di Bologna, si comincia a stare nelle zone dove si ama il liscio, no? Sì. Quindi c'è la Romagna, sì, molto sì, vicino a voi, c'è questa concorrenza di pop, diciamo, liscio, verso la vostra proposta musicale, nuova ma vecchia? Diciamo che la concorrenza del liscio ci piacerebbe ci fosse, cioè se il liscio fosse veramente liscio sarebbe una bella concorrenza, invece purtroppo adesso sta spopolando l'elettronica e ci sono solo due o tre con tastiere basi, dove quindi la musica comincia un po' a scarseggiare. Noi saremmo veramente felici se ci fosse una reale concorrenza nelle sale da ballo, perché la musica liscio era veramente un'arte diversa, perché non era legata alle canzoni, era legata a ritmi, quindi non sarebbe stata comunque una concorrenza, però se anche ci fosse sarebbe gradita. Io non so che qui da voi in Veneto come si sta sviluppando la balera, ma sta diventando sempre meno una forma d'arte, sempre più una forma proprio commerciale, ma nel senso negativo, cioè nel senso che non si suona più dal vivo, e questo... No, certo, diciamo sono sempre molto pochi i musicisti che si esprimono, e c'è appunto, come dicevi tu Daniele, molta elettronica che aiuta anche con una strumentazione, diciamo, un sintetica, po' povera, si può dire, sintetica, diciamo sintetica. Così. Però il sintetico prude, cioè questo è sempre sulla pelle, che sia un vestito, che sia la musica, il sintetico prude. Io non so, mi auguro voi qui in Veneto siate messi meglio, ma nella patria del liscio ultimamente, ecco, c'è questa tendenza che non è... Benvenuti. Praticamente il DJ si porta la sua macchina e con la sua macchina fa di tutto. Esatto, quindi sì. In questo caso sì. Allora, Trio Radio Marelli, ancora spazio per la vostra musica dal vivo. Un altro brano, visto che abbiamo citato prima Vianello, un altro brano che riguarda quella sua fase, diciamo, di notorietà con Abbronzatissima, che conoscono tutti, ma non la conoscono nella versione marellizzata. Marellizzata. E allora Pedro, marellizziamo Abbronzatissima. Ah ah ah, cercasi signorina abbronzatissima sotto il raggio del sole di questa lunga estate d'amore. Quando il viso tenerissimo tornerà di nuovo pallido, certi giorni riva al mare non potrò dimenticare. Come è dolce sentirti respirare con me. Ah ah ah, abbronzatissima sotto i raggi del sole, come bello sognare, abbracciato con te, abbracciato con te, abbronzatissima, a due passi dal mare, come dolce sentirti, respirare con me, respirare con me, sulle labbra tue dolci, sulle labbra tue dolcissime, profumo di salsedine, profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amore. Quando il viso tuo nerissimo, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. Abbronzatissima, abbronzatissima, sotto i raggi del sole, abbronzatissima, a due passi dal mare, respirare con te. Labbra tue dolci, sulle labbra tue dolcissime, profumo di salsedine, un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amore. Quando il viso tuo nerissimo, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mare non potrò dimenticare. abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, respirare con te, respirare con te. Ah, come dolce sentirti respirare con me, come dolce tu sentirti respirare con me, cercasi signorina bronzatissima sotto il raggio come del sole. Cercasi signorina bronzatissima sotto i raggi del sole di questa lunga estate d'amor. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Assolutamente interessante, sì, come sì, interpretano questa, queste canzoni. Abbronzatissima. Ti sei emozionato, eh? Sì, moltissimo, non me ne sono perso una. Puoi sentire queste voci sussurranti nel cercasi ragazza abbronzatissima. Che poi tra le altre cose, Pedro, tu sei... Io sono argentino, sì. Argentino, sì, sì, sì, perché hai una pronuncia di quelle... Ma infatti i maestri mi danno tutte queste parti così. Sì, sì, da... sì, sì, sì. Un po' da invitante, esatto, no? In questo caso. Da latino. Sì, sì. Entonces, allora, diciamo che appunto abbiamo parlato di spagnolo. Il sito del trio Radio Marelli comunque si può vedere non solamente nella versione italiana, ma anche nella versione inglese. E vorremmo sapere il perché. Perché international mica cotica. Cioè, no, perché comunque ci capita anche di fare... di fare specialmente spettacoli anche per stranieri. Non è un caso, anzi ci capita spesso, anche sabato prossimo facciamo un banchetto matrimonio di una coppia di Los Angeles, e quindi niente. E quindi vi siete preparati un intro in inglese? No, facciamo... Certo, no, no, ce l'abbiamo, non provare a dire che Trio Radio Marelli non ce l'ha, e allora per la coppia di Los Angeles, that's amore! When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore! That's amore! When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore! Maestro, hanno capito bene, quindi Trio Radio Marelli, no, quello che voi volete ce l'ha sempre. Però dopo cantate in italiano, per di Los Angeles, solo l'introduzione. Solo un dettaglio. Solo un dettaglio, per fargli ricordare qualcosina. No, per dire che Trio Radio Marelli, quello che volete ce l'ha, in un dettaglio. Poi, ritornando a Brozzandissima, a me è piaciuta molto la fase corale, cioè lo scambio di voci. Avevate un po' di pizzico sanremese in alcuni momenti, volutamente sanremese, ironizzando su Sanremo probabilmente. Sì. Anche se Vianello chiaramente Sanremo ne aveva tentato di fare, però questo era un pezzo assolutamente non sanremese. Voi l'avete inventato sanremese e poi l'avete squarciato totalmente, sì, certo, l'avete distrutto, distrutto musicalmente, nel senso positivo del termine. Distrutto e ricostruito. Sarà contento Edoardo Vianello, sicuramente. Spero. Anche Rossi che ha scritto il testo, praticamente. Sì, Carlo Alberto Rossi. Infatti, quella è la sfida: cioè, più il pezzo è conosciuto, più il pezzo è conosciuto, più il pezzo è noto, più è divertente scomporlo e dargli una forma nuova e farlo e vedere che la gente riconosce appunto che è stato reinventato. Insomma. Loro si prendono già i diritti d'autore per il fatto che voi prendete questa musica e vi ringraziano, ma gliel'avete fatto ascoltare direttamente a Califano, a Vianello? No, a Vianello No. Effettivamente sarebbe un'operazione da fare, sì, perché però alla SIAE mi hanno avvertito che potrebbero poi anche proibirmelo, perché siccome è roba loro l'arrangiamento io dovrei avere l'autorizzazione, per cui ho detto fate voi, se poi dopo non sono d'accordo dopo non lo potete più eseguire, quindi Potrebbero anche dire che l'arrangiamento non va bene, quindi potete più eseguirlo, esatto. Però poi intanto voi andate in giro per radio, per televisioni, per le piazze, infatti loro prendono soldi sempre, quindi loro voglio vedere che ti dico non lo farei più, guarda. No, e tra l'altro c'è anche che sarebbe piaciuto anche avere quando facciamo i bordereau avere un ritorno per tutto questo lavoro di arrangiamento, ma anche lì hanno detto nessuno lo farà mai, perché ovviamente mettendo i diritti a metà con l'arrangiatore guadagnerebbero la metà, e quindi ovviamente non hanno nessuna convenienza nel riconoscere l'arrangiamento e il lavoro di arrangiamento, per cui diciamo che uno lo fa per la soddisfazione di avere un buon... Scusate, vorrei ricordare che tutti gli arrangiamenti appartengono qui al maestro Daniele. Bene, quindi... bene, bene, fantastico. Quindi allora, comunque, se riusciamo ad avere il numero non so, civico di dove si trova il buon Vianello, possiamo spedirgli questa abbronzatissima. Spedirgli questa abbronzatissima, penso ne abbia assolutamente piacere, visto che l'hanno cantati un po' tutti, ascoltarli in una maniera diversa da quella che si ascolta solitamente nelle varie programmazioni, non so, anche della televisione, dove riprendono sempre gli stessi cantanti per cantare le stesse canzoni. Ascoltarla in una maniera diversa è sempre bene, anche per chi l'ha, per chi l'ha scritta ha ripreso prima. Anche lui stesso, perché visto che la ripropone ogni estate, chiaramente. dobbiamo sottolineare anche questo. Può darsi anche che succeda che vediamo a Vianello che fa allora dico eccolo, perché mi c'è capitato che abbiamo fatto degli arrangiamenti tipo questo qua, il pinguino innamorato, vai, fai, guarda il pinguino innamorato col colletto duro e con il petto lamitato va passeggiando sopra il parco con un'aria molto chic dondolando mollemente il frac. E abbiamo sentito un gruppo che appunto la suonava così. Guarda. Esatto, cioè con questo coro duo sotto, e mi ha detto, beh, oh, ci fa piacere che insomma i nostri arrangiamenti piacciono e abbiamo chi li porta in giro anche al posto nostro. Insomma, benissimo. Mentre aspettiamo che Edoardo Vianello si intrufoli tra di voi per cantare la vostra canzone riveduta e corretta, ormai è diventata vostra. Sì, ormai. Perfetto, ricordiamo ancora un altro indirizzo per ascoltare ancora delle tracce delle vostre canzoni prima di acquistare anche il CD, perché immagino che il vostro CD sia in vendita. Certo, e Abbronzatissima fa parte del CD Bagno Marelli, quindi chi la vuole avere tutti i giorni alla sveglia la può puntare, con Pedro che sveglia dicendo cercasi signorina. È un risveglio molto sexy, molto suadente, e lo consigliamo perché veramente sì. Poi consigliamo anche ai nostri ascoltatori di andarsi a vedere il myspace.com/trioradiomarelli per ascoltare appunto alcune tracce di questo nuovo Bagno Marelli. Allora proseguiamo con l'ascolto, questa volta in versione da disco, un'altra canzone di Vianello, ancora con La Tremarella. Non so se gli ascoltatori se la ricordano, così come l'abbiamo detta La Tremarella, ma adesso tornerà sicuramente. Sì. Com'è? Blu Radio Sera. Thank you. come vibrare una molla, mi viene la tremarella ballando il surf. Sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuore. Mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amore. Muoviamo insieme queste mani, come farebbero i marziani, che sanno dar con quella mossa quella scossa che da noi si chiama amore, che da noi si chiama amore. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Di Vianello Alicata Rossi ci siamo ascoltati la Tremarella. Canta il trio Radio Marelli. Direbbero così, avrebbero detto così gli speaker di un tempo. Trio Radio Marelli, la Tremarella nella loro versione un po' filo messicana. Dovremmo avere all'interno anche uno Speedy Gonzales a dire... Arriva, Andle, no? Un po' Tex-Mex, sicuramente. Oh, Tex-Mex, sì, assolutamente. E la Tremarella che è sempre riveduta e corretta, anzi marellizzata, dal trio Radio Marelli. Sì, abbiamo parlato di Tex-Mex e abbiamo parlato anche dei Los Lobos, perché Los Lobos Docet, perché alla fine sicuramente vi siete ispirati alla grande band americana. Sì, sì, ma col sombrero, infatti. Beh, per far venire ben la Pedro che è argentino, sì, però qualche attinenza ai Los Lobos può arrivare, certo. Pedro, cosa sì, dici? Sì, infatti mi sono lasciato il baffo apposta. Ecco, sì, appunto. Per avere il suono giusto ci voleva il baffo e il sombrero, poi una volta avere il sombrero, perfetto. No, ma l'arrangiamento è molto, visto che hai tutti te gli arrangiamenti, sì, sì. L'idea di questo Los Lobos dipendente, nel senso scherzoso, come è nata, come si è sviluppata? Ma in realtà la parte finale, l'idea, siccome avevo studiato alcune cose di Stravinsky, che ci sono tutti dei poliritmi, quindi Stravinsky non c'entra niente con gli Los Lobos. No, mi è venuto proprio da un'altra cosa, però sai, le suggestioni ognuno ce le ha, certo. Cioè magari io volevo fare una roba alla russa, in realtà l'influenza poi è, cioè, la suggestione è stata Los Lobos, cioè, ma nel senso positivo. Sì, sì, sì, in senso positivo. Cioè, l'idea era stata su quella cosa di fare quel poliritmo lì, quel mescolare dei ritmi diversi, ed è venuto fuori Los Lobos. Ne sono felice, cioè, mi dispiace. No, perché partire da Stravinsky per andare a Los Lobos. Sì, c'è un po' di viaggio lungo, ma insomma. Non bel cuisine proprio. Sì. Viaggio lungo, ma tenendo il finestrino aperto, si respirano le varie sonorità che ti arrivano dalle varie prove fatte con lo strumento, anche perché Stravinsky non è uno strumento per chitarra, ma è un compositore. Infatti poi il pezzo nasceva anche da quest'idea di usare i vari timbri dei due strumenti. Infatti prima mi chiedeva se per caso avevamo usato uno xilofono. Io sentivo quello, invece no. Sono i due strumenti che, anziché usare l'arco, si rigirano e usano il legno. Battendo il legno viene questo suono ritmico, che insomma volevo cercare uno sviluppo del timbro da un timbro più legnoso verso uno più arioso, e quindi il pezzo parte così, con questi suoni quasi di xilofono, appunto, tutti col legno battuti, e poi dopo si arriva al suono pieno. Sentiamo Pedro. Come vengono fatte, esatto. Sì, ecco qua. Questo è più o meno. Ecco qua, quindi abbiamo fatto anche lezioni di musica in questo caso. No, ma diciamolo che comunque l'approccio e lo studio di ogni pezzo è un approccio classico, no? Sì. Cioè, tutti abbiamo avuto degli studi classici, quindi... la base è quella, poi... però dopo lo avete sviluppato come avete voluto voi, chiaramente. Esatto, cosa... sì. Anche perché chi studia contrabbasso, certo, dopo va inevitabilmente verso il basso, invece tu sei rimasto verso il contrabbasso, quindi sia pizzicato che suonato. No, al contrario. Sì. Sì, che di solito la gente comincia col basso elettrico, poi passa al contrabbasso. E per me è stato uguale quando avevo 13 anni, ho cominciato col basso, poi quando le cose si cominciavano a far serie non mi piaceva più, non so, il tipo di musica che dovevo suonare. E così comunque ho conosciuto più il contrabbasso, altri tipi di musica, insomma. Che differenza c'è tra il basso elettrico e il contrabbasso? Come ti sei trovato a lasciare il basso elettrico, quindi un suono forte, per un suono un po' più colorato, più artistico? C'hanno le stesse note, ma sono due strumenti totalmente diversi. Se è più difficile il basso o il contrabbasso, secondo te? Nessuno strumento è più facile o più difficile, forse da suonarlo bene è sempre più difficile. Ci vuole più tempo, però è per tutti gli strumenti così, diciamo. Ho capito. Bene, allora, Trio Radio Marelli, ancora un pezzo del vostro repertorio, quindi dopo il bagno la vasca. Dal bagno la vasca, e quindi anche per far vedere che non siamo legati necessariamente a un'epoca, un brano del 2000 di Alex Britti, anche Alex Britti è stato marellizzato. 1, 2, 3, 4. Voglio restare tutto il giorno in una vasca, con le mie cose più tranquille nella testa, un piede fuori come fosse una bandiera, uscire solo quando fuori è primavera. Ma spero solo questa mia fantasia non sia solo un altro attacco di utopia, perché per questo non c'è ancora medicina che mi trasformi la mia vasca in piscina, e tantomeno trasformare tutto il mare. Però qualcuno lo dovrebbe inventare. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. E mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, mi ribagno, mi asciugo e incomincia qui lo spasso. Amici, conoscenti ed anche i parenti, con il cucumero e la Coca-Cola fresca, con le chitarre a dirci che non è Francesca. E aspetteremo le prime luci del mattino, festeggeremo con cornetto e cappuccino. E quando stanchi dormiremo sulla sabbia, le nostre camere scolpite nella nebbia, ma dormiremo poche ore quanto basta, per poi tuffarci tutti nella stessa vasca. E allora sai cosa fo? E vo al mare. E mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. E mi bagno, mi tuffo, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo, mi asciugo e inizia qui lo spasso. E mi bagno, mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso. Mi bagno, mi asciugo e inizia qui lo spasso. E mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso. Mi ribagno, mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso. Blu Radio Veneto. No, ho pensato bene di inserire anche Alex Britti per capire come il trio Radio Marelli sono riusciti a stravolgere la canzone, o per usare il termine tecnico, marellizzare la canzone. E sicuramente Alex Britti avrà voglia di sentire questa vostra interpretazione, e soprattutto perché lui fa parte di quei classici musicisti one man band, no? Dove lui va, fa anche lo spettacolo assolutamente da solo, ma neanche nemmeno senza basi, con pedaliere, sì, chitarre, sì, chitarre ripetute, ma sempre lui a fare la musica, quindi assolutamente, diciamo, un artista di strada come, come lo siete voi. Sì, sì, certo. Se lui è one man band, noi cerchiamo di essere band one man, cioè, cioè il rapporto è così, sì, invertito. Lui che proviene dal blues, praticamente nasce dal blues e poi è sviluppato a musica leggera, tra virgolette, la musica, sì, pop. Comunque è un ottimo artista. Sei bravo, insomma, molto, sì, bravo, sì, sì. E beh, secondo me avete fatto bene ad arrangiare, secondo me ci avvicinava, l'arrangiamento era proponibile, non, sì, so l'idea come è nata di arrangiare un pezzo di Alex Britti, no, però l'idea di Alex Britti era perché appunto è nato di dire qual è una canzone che ha un mood così leggero, così Marelli nel 2000, non è facile nel 2000 trovare una canzone così avete leggera, avete pescato quella allora. E allora diciamo sì, c'erano un paio, perché una era quella Io soffro lo stress, sono stanco, poi anche quella aveva un'ironia che mi piaceva, poi c'era anche questa di Britti e abbiamo arrangiato tutte e due. Quella che più ci è piaciuta e che più ha funzionato è stata questa di Alex Britti. E il taglio è stato un taglio, sì, blues, leggero, ma anche così un po' assurdo, perché appunto c'è il punto in cui il ritmo, il pezzo si rompe e c'è la parte della recitazione, insomma, quindi insomma l'abbiamo marellizzata fino in fondo, ecco, quindi anche il coro ha alcune particolarità, insomma siamo stati contenti, è sempre funzionato molto bene. Sì, come sì. Perché guardi così sempre Pedro? No, ma stavo per aggiungere una cosa, perché lui è l'uomo del monte, sì, presente, sì, sì. Cioè, non ha detto perché sì, quando c'è la cosa della, quando la pubblicità dell'uomo del monte, sì, in Argentina, era lui l'uomo del monte. Ah, per questo. Ah, ora infatti dice... hanno smesso perché è venuto via. Ma... Sì, infatti non c'è più la pubblicità, perché lui, se lui mi dice sì, io mi sento felice, sereno, sono a posto con la mia esistenza. No, volevo aggiungere che è anche una prova per noi provare a fare questi pezzi più moderni, no? Certo, giusto. Di vedere se si riesce a marellizzare anche questi pezzi, no, più moderni. Perché ha una duplice funzione. In primo luogo si capisce ancora di più che il Trio Radio Marelli ha una sua identità. Cioè che un pezzo sia anni 30, anni 40, anni 50, c'è comunque un suono e c'è comunque un'idea che si sente, che c'è un filo rosso. E in un altro, per non chiuderci nella nicchia dello swing, cioè di dire che il Trio Radio Marelli è il gruppo swing. Il Trio Radio Marelli nasce dallo swing, ma è un trio sulla canzone italiana, quindi, e questo disco proprio vuole andare in questa direzione. Quindi non deve essere una gabbia lo swing, assolutamente. No, no, no. È uno dei tanti generi della musica italiana che ci appartiene per la sua allegria, ma se un'altra epoca come Vianello, come altri autori avevano la stessa allegria, per noi hanno la stessa importanza e lo stesso valore, certo, insomma. Bene, adesso Tipi da spiaggia, un altro pezzo che voi avete pensato bene di marellizzare, sì, e di inserire all'interno del vostro bagno Marelli. Sì, esatto, è un brano, sì, del maestro Ferri, uno dei maestri più importanti della RAI, è veramente un grandissimo artista. E arrangiatore dei brani più famosi di Mina, fra l'altro. E di tutti quelli di Renato Ferri, Tiziano. Renato Zero. E allora, come direbbero a Sanremo, Tipi da spiaggia, canta Pedro! C'è il tipo sangue, che arriva bianco, e dopo poco, e rosso fuoco, da spiaggia. C'è il tipo freak, c'è il tipo chic, c'è il tipo rock, ma guarda quante ce ne sono, da spiaggia. C'è lo sportivo, tondo e giulivo, che fa lo yoga, solo lo yoga, sul bagno asciuga, da spiaggia. Da spiaggia. da spiaggia. Che spiaggia. Da spiaggia. Che tipi c'è? Il tipo sangue. Oh oh oh, che arriva bianco. Oh oh oh, e dopo poco. Oh oh oh, e rosso poco. Già rosso poco. Da spiaggia. C'è il tipo snob, c'è il tipo shock, c'è il tipo sub, ma guarda quante ce ne sono. Da spiaggia. C'è lo sportivo, il sportivo, tondo e giulivo, tondo e giulivo, che fa lo yoga, solo lo yoga, sul bagnasciuga, sul bagnasciuga. Da spiaggia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Che dire, Maurizio? Sono stati bravissimi perché dicevo, appena finito il pezzo, che era molto problematico fare un pezzo simile, dividerlo in tre. Sì. Chiaramente il pezzo dell'autore non era diviso in tre. Voi l'avete diviso in tre, ebbene, e avete combaciato le tre momenti, le tre essenze del pezzo, quindi con molta difficoltà, ma benissimo. Secondo grazie, me grazie. Io l'ho sentito così. Grazie. Tipi da spiaggia, abbiamo ripercorso un po' quelli che erano i tipi da spiaggia di quel periodo, certo. Ma che non sono cambiati poi molto anche, no, infatti li ritroviamo sempre. Guardando il 2012 li ritroviamo sempre questi tipi da spiaggia. E poi noterei anche che appunto un grande artista fa dei pezzi che secondo me si vede che non hanno tempo, perché mi sembra una canzone che potrebbe essere alla radio anche oggi e non sfigurerebbe. Veramente un grandissimo pezzo, un grandissimo pezzo. E non sfigura, stasera non avete sfigurato per niente. Ringraziamo il nostro curatore Alberto Pisco. Che grazie a lui stasera siete qua. Vabbè, ovviamente ringraziamo anche noi lui di averci dato Alberto l'opportunità di essere qui a Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Sì. E anche il Veneto è stato marellizzato. Ecco qua, magari ci potrete dedicare anche, non so, uno stacchetto dedicato da Trio Radio Marelli a Blu Radio Veneto, perché no? Ok, dopo se quando c'è la pausa un attimo ci penso. questo era un po' cattiva, perché questo ce l'abbiamo, però ci devo pensare. Ok, così è stata una provocazione. Ah, no, aspetta. Eccola qua. Sì. Aspetta, lo possiamo fare anche così. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di Radio Blu Radio Veneto. Vabbè. Magari la prepariamo meglio per sì, dai, no, questa era dopo, un po' trucida, va bene. Dopo la prossima canzone. Allora, un altro pezzo dal vostro ultimo CD che si intitola Bagno Marelli, col sottotitolo di Tutto il sole della musica italiana. Però c'è un brano che non ha niente a che fare col sole. E infatti è stato cassato in Bagno Marelli, perché sul disco effettivamente abbiamo detto ma perché metterlo? Sì. Però in realtà era stato registrato perché abbiamo conosciuto Renzo Arbore, Renzo è stato gentilissimo con noi e abbiamo voluto registrare per fargli sentire come avremmo marellizzato i suoi brani. Quindi diciamo avevamo fatto un piccolo demo con tre dei suoi brani, cioè La vita è tutto un quiz, Ma la notte no e Cacao Meravigliao. Ma alla fine abbiamo tenuto solo Cacao Meravigliao perché era l'unico che era in con la spiaggia, col sole, Ma la notte no è stato cassato, quindi forse così potete sentire una versione che altrimenti su Bagno Marelli non ci sarà. Ok, allora ce l'ascoltiamo. Blu Radio Sera. No, la vita è una grande corrida, ma la notte no. Ogni giorno una lotta, chi sta sotto e chi sopra, ma la notte no. E al mattino un po' grigio se non c'è il dentifricio, ma la notte no. Tu ti guardi allo specchio e ti sputi in un occhio, ma la notte no. Che stress di giorno, ma la notte no. presi. Come dormi? Ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, no. Ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, no. Lo diceva Neruda che di giorno si suda, ma la notte no. Rispondeva Picasso, io di giorno mi scasso, ma la notte no. E per questa rottura non si trova la cura, ma la notte no. Il morale si ammoscia, la pressione si affloscia, ma la notte no. Si ammoscia di giorno, ma la notte no. Cangosci, cangosci, cangoscia di giorno, ma la notte no. Giorno mi tormenti così, mi tormenti così. Giorno mi fai sempre sì, tu mi turbi. Ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, ma la notte, no. Ma la notte, ma la notte, ma la notte. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo ascoltato Malanotte No, un pezzo che era all'interno del vostro demo, la prima fase di preparazione di Bagno Marelli, ma quanto abbiamo capito verrà esclusa da quella che è la produzione prossimissima di Bagno Marelli, sì. E abbiamo capito anche il perché. Sì, abbiamo cercato di capire il perché. Sì, sì, non c'entra niente con la spiaggia e con tutto col mare, insomma. E quindi via. Sì, Sarà per un prossimo disco ancora. Per allora. Oppure disco. Rimane proprio una chicca da collezionisti. Perché c'è solo in poche copie. Esatto, in pochissime copie. Molto molto bene. Allora, che dire Maurizio? Abbiamo fatto un tuffo nell'acqua proprio indietro. Sì, splash, poi ci siamo per ben rinfrescati. Ricordiamo, le temperature all'interno della radio sono sempre molto molto alte e vengono tenute ancora più alte dai musicisti che vengono qui ad esprimersi. In questa serata abbiamo avuto il trio Radio Marelli, che ringraziamo. Grazie per essere stato Grazie. Qui ed aver sponsorizzato un po' la loro causa. Per matrimoni, feste di piazza, per matrimoni anche all'americana, sì. Per tutto quello che volete, mi raccomando, trio Radio Marelli. Se non sapete come raggiungerlo, vi raggiungono loro. Esatto. Ecco, quindi trioradiomarelli.it è il sito da dove potete avere molte altre informazioni. Poi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è registrata, per cui se vi siete persi qualche pezzettino, nei prossimi giorni sarà disponibile anche all'interno dei nostri archivi sonori tramite il nostro sito internet bluradioveneto.it. Cliccando all'interno della pagina riservata al trio Radio Marelli si potrà riascoltare la trasmissione e anche vedere quelli che sono i volti del trio Radio Marelli. Quindi ringraziamo ancora una volta Daniele, Francesco e Pedro, auguriamo un buon rientro nella vostra Bologna. Grazie, grazie a tutti. Però non ci lasciate così, vero? Vi lasciamo con un sapore, vi lasciamo con un sapore. Capito, benissimo. Allora, io e Maurizio ce ne andiamo, lasciamo i microfoni aperti al trio Radio Marelli, quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande e caloroso ciao, vi lasciamo col trio Radio Marelli, un ultimo pezzo conosciutissimo, Sapore di sale. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua, quando esci dall'acqua, e ti vieni a sdraiare, vicino a me, vicino a me, vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di sale, sapore di mare, sapore di mare, gusto un po' amaro, gusto un po' amaro, di cose perdute, di cose lasciate, di cose lasciate, lontano da noi, lontano da noi, dove il mondo è diverso, dove il mondo è diverso, diverso da qui, diverso da qui, il tempo è dei giorni, passano piccoli e lasciano in bocca, lasciano in bocca il gusto del sale, sale, ti tuffi nell'acqua, nell'acqua, mi lascia guardarti, mi lascia guardare, e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino, poi torni vicino, e ti lasci cadere, e ti lasci cadere, così sulla sabbia, e nella sabbia, e nelle mie braccia, nelle tue braccia, e mentre ti bacio, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di sale, sapore di mare, sapore di mare, sapore di te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera.